andare in onda e a proporvi una serie, una compilazione di cose già sentite in questa stagione radiofonica. Ci siamo dilettati nel produrre i Trip Virus e quelli vi riproporremo, ma ci tenevamo pure a mandare due o tre cose di colui che a vario titolo e per varie ragioni e per più diversi motivi è stata una delle colonne sonore di questa radio in tanti anni, e che è il maestro Ennio Morricone, scomparso proprio qualche ora fa per i postumi di una caduta e data l'età, insomma, anche degli incidenti non troppo gravi possono diventare esiziali per vari motivi, perché come ricorderete, come c'è uno spot ricorda la vicenda della banda Bellini. La banda Bellini stessa nei 68-69, insomma, in quegli anni lontani di movimento, era solito presentarsi in piazza cantando Shan Shan, perché un altro motivo lo scoprirete proprio fra qualche istante. E quindi niente, stanotte compilazione di Trip Virus, che come sapete è quell'esperimento che abbiamo cominciato a fare proprio dal lockdown insieme al Fantasma, andando a prendere quanto di pop, sotto pop, trash, impegnato, artisticamente valido, insomma, facendo un gran miscuglio, polpettone di cose le più svariate, andandole a musicare, cercando di metterle insieme. L'invito che vi facciamo è, dato che questa radio vive dal 1977 grazie al vostro contributo, di continuare a farlo. www.ondarossa.info è il sito, ci andiate, in alto si apre il banner, si può aderire quindi alla campagna di radio abbonamento 30 per 1000, 30 euro per 1000 di voi bastano a far vivere la radio per un anno. Questo è il calcolo che abbiamo fatto, e quindi vi invitiamo a diventare radio abbonati. 87.9 da modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa. Onda Rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio. 25 o'clock @ondarossa.info per molestare il sottoscritto, per magari, lo continuiamo a ripetere, se aveste voglia di preparare dei Trip Virus, stasera ne assaggerete un paio di esempi vecchi, inviateceli, proponetevi. 06-4917-50, recapito telefonico della radio. Il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 00185, Roma, via dei Volsci 56, San Lollo. Insomma, impegnate a far vivere questa radio anche nei mesi estivi, come facciamo noi d'altronde. E dicevamo, uno dei motivi è proprio questo,

perché guardate, guardate l'esercito. E abbiamo visto in queste settimane i video di quello che è successo in giro. Abbiamo visto che gli fanno i controlli, che vanno ad altri squilibri, invece un difensore che cammina per strada. Questa è la vicenda, la vicenda è arrivata, non si dà una salvata, perché queste scene fanno schifo e io non le voglio vedere. Questa è una dittatura, è una dittatura. Questa è una dittatura, dittatura, dittatura. Ma tutto qua si parla di mascherine? Ma no, non lo so, ho sentito gridare, ma hanno stato in un supermercato lì. Sì, ma loro possono girare senza mascherina. Non è obbligatoria la mascherina. Loro sì, hanno il diritto di girare senza mascherina, noi no, non gli danno la multa. Ma loro no. Stanno facendo voce! Oh, vedi qua, la mascherina, un mese adesso! Avete giurato sulla Costituzione, ragazzi, sulla Costituzione. Senti, sta venite, ragazzi. Allora, no, non ti fai qui, ragazzi. Io non ti posso, è vero, io posso chiamarmi Paperino, io cosa ne so? Allora vieni. Ehi, sto parlando. Almeno stiamo, noi eravamo più lontano da te, voi vi siete avvicinati, siete andati a un metro di distanza. Voi state avvicinati, noi stiamo lavorando. Il decreto non c'è l'obbligo della mascherina, Non è casa tua, questa è casa mia, senti che ti stai avvicinando. Ma io sto lavorando. Allora, se puoi lavorare, puoi restare la gente. Non c'è l'obbligo della mascherina. Dove stai facendo? Sotto casa mia. Basta, dai, basta, lasciatemi stare, dai, oh, dai, basta, non è successo niente, per favore, è abito qui a 50 metri, dai. No, io potrei stare a 50 metri da casa, per favore, basta, ragazzi, la Costituzione, per favore, ma questa è dittatura, per cosa? Non siamo criminali. E allora, perché questa cena? Che cos'è? Perché va tutto bene questa cena? Ma iniziato cosa? È incredibile, lei ha giurato sulla Costituzione. Non ti permettere. La signorina deve venire con noi. Questo è il cuore, ragazzi. Io sono incensurato, pago tutte le tasse, sono sotto casa mia, questo è il gol. Questo è il gol. Ma noi stiamo lavorando, non stiamo. Ho capito, ma chi dica che c'è. Ragazzi, abito da 17 anni, qui c'è una rissa al giorno, non vi ho mai visto. E ma chi è che ha mai chiamato? Non vi ho mai visti, consigliato e coltellato. Chi è che ha mai chiamato? Ma come chi è che ha mai chiamato? Chiamano di continuo, abito lì. È incredibile, è incredibile. Perché guarda questa situazione? Sai perché ti spiego io. Siamo tutti incensurati. Ti spiego io. Questo signore abbiamo preso noi. Ha strappato le collanine di un vecchietto che camminava come voi. Io ho solo visto, guardi, uno che ha strappato la collanina, guarda. C'è la mascherina. Esercito. C'è la mascherina. Esercito. No, questa cosa qui è la polizia. Adesso che lavoro fa? Allora. Ha tutto il diritto di farlo. Io mi informo sugli assicurati. Sì, ma La polizia è arrivata. Ma guardi che roba, quei ragazzi, non dica se questi ragazzi hanno strappato la collanina. No, non sono loro. Allora perché? Perché questa scena? Guardi, la polizia, guardi l'esercito, guardi. Che c'entra? Ma come che c'entra? Questa cosa è inaccettabile, lo dico per lei, guardi che adesso le fanno i vaccini a lei. È una cosa inconcepibile. Ma cosa devo ascoltare? Io vedo, non devo ascoltare. Ragazzi, venite, va? Che tanto così è la cosa. Dai, vieni via che sei minorenne. Ma non è che l'assemblamento e quindi poi siete arrivati. Io ero ancora in casa e sono arrivato a seguire prima. Non lo fare mai più, non lo fare più, perché non fare più, non fare più, non fare più, non fare più, non fare più. Guardate, oh, guardate questi sono. Ma per quale motivo? Guardate, un ragazzino quello, vai via, vieni via. Ma che te passi, porco Dio! Guarda quanti sono. Ma che cazzo! Ma che cazzo fate? Ma che cazzo! Ma che cazzo fate? Ve l'avete denunciati tutti, tutti denunciati. Tutti denunciati. Faccio le porta! E ti fate di merda! Guardate quanti sono, 1, 2, 3, 4, 5, 10. No, io abito qui. Tutti in strada, porco Dio! Dai, scendete, cazzo! Ma scendete, cazzo! Ma vi rendete conto? Domani tocca a te! Domani tocca a te! Ma pensa a te, porca tro... Yeah! Siete arrivati a Ciappolini, signori. Immagino non avete nessuna difficoltà a seguirmi. Ma le pare. Prego. Signor Mason e il signor Steinberg, suppongo. La supposta è giusta. Benvenuti a bordo del futuro, signori. Grazie, molto gentile. Prego, signori, accomodatevi, fate come se fosse a casa vostra, prego. Beh, niente male la tinozza, caro capo. Oh, una cosetta da niente. A proposito, che significa, capo? Niente. Assolutamente niente. K1 mi piaceva e me lo sono messo. È piuttosto misterioso, non trovate? Complimenti, signori. Non solo avete svettato i miei generosi tentativi di assassinare, ma siete riusciti a penetrare nella mia organizzazione. Non avrei mai immaginato che la CIA annoverasse tra le sue fila gente del vostro calibro. Se la cosa può interessarla, neanche noi. Venite qui. Lasciateci soli. Signori, ho deciso di offrirvi un'alternativa. Vi darò due possibilità. Siamo tutti orecchi. Prima possibilità, essere uccisi. Credo che finiremo per scegliere la seconda. Seconda possibilità, lavorare da me. Beh, non è per fare i difficili, caro K1, ma prima di passare alla concorrenza noi vorremmo, insomma, vorremmo saperne qualcosa di più. Legittima curiosità, entro un futuro ormai abbastanza vicino, signori, io K1 dominerò il mondo. Non è che sta facendo il passo più lungo della gamba? No, niente affatto, niente affatto. Un progetto ambiziosetto, Come saprete, signori, lo Space Shuttle verrà messo in orbita da Cape Canaveral. È questione di qualche ora. Ah, qui non ci piove, e poi? Esattamente 30 secondi dopo il lancio, un missile partirà da un mio sommergibile atomico ormeggiato al largo della Florida e intercetterà lo shuttle esattamente 7 miglia sulla perpendicolare di Cape Canaveral. L'impatto sarà trasmesso in diretta dalle stazioni televisive di tutto il mondo. La testata del mio missile conterrà un ordigno micidiale, la bomba K. Quando intercetterà lo shuttle, esploderà nella collisione e diffonderà le sue radiazioni su tutto il pianeta. La bomba K è il più formidabile ordigno che sia mai stato concepito dalla mente umana. Conserverà intatti sia gli uomini che le cose, ma cancellerà da tutte le menti il numero. Il numero? Quale numero? Tutti quanti, tutti i potuti numeri dal primo all'ultimo. Tutti i numeri? Sì, tutti, l'idea stessa di numero scomparirà e non potrà più essere concepita. E senza i numeri la civiltà moderna si fermerà, i calcolatori vomiteranno inutili segni incomprensibili, le misure non avranno più nessun senso. Pensateci bene, signori, avete le ore contate ormai. Sì, non staremmo mica sognando. Tu forse, io no di certo. Allora non ci chiedi scherzo. O diventare complici di un pazzo, o essere uccisi. Te lo immagini un mondo senza numeri? Una partita di football non avrebbe punteggi. E la fine. E poi non puoi più fare un numero di telefono, 3657, non puoi più chiamare una pattuglia. Giusto, né ordinare due ampulle. Già, tra le altre cose. Né goderti il milione. Ehi. Quale milione stai parlando? Come sarebbe dire quale milione? Il nostro milione. No, il nostro milione è il nostro milione. Un milione di dollari è sempre un milione di dollari. Non è così. Thank you.

Attenzione! Ego! Io la voglio sapere, non è niente! Ha detto tre abbondante! Che succede qui? Basta, fammi il bottone! Quale bottone? Questo, quale? Sì. Uno, venga qui! L'ha mancato, l'ha mancato giusto di un mazzetto di peli così. E l'ha sfiorato. Non si incazzi, signore. Tutti possono sbagliare. Sa come sono questi missili? Tutti possono sbagliare. Tu sei un ventriloquo. Chi io? Tu sei un fattutissimo ventriloquo. Adesso no, no, non è un ventriloquo, sì. È uno stronzo. Anzi, sei un tristronzo. Ecco cosa sei. Potrei accertarmi un attimo? Sì, sì, vai. Aspetta, no, un momento. Ehi, dove andate? Fermateli, fermateli. Siamo tornati a chiudere questa proposta di questa sera che vi abbiamo sottoposto. Vi abbiamo tenuto compagnia con Onda Rossa Posse e Batti il tuo tempo, che ovviamente in partenza citava C'era una volta il West e C'era una volta in America di Ennio Morricone. Poi i titoli di testa del 1968 del Buono, il Brutto e il Cattivo, e quindi il primo Trip Virus, 25 marzo di quest'anno, prodotto dal Fantasma, che ha un po' inaugurato la serie. Vedremo tra l'altro nelle prossime puntate di riuscire ad inverdire un po' con The Trip Virus, forse anche live, interattivi, non preregistrati, ma insomma vediamo se ce la faremo. Poi invece il 23 aprile, Trip Burla Numeri Virus, intramezzato da Per qualche dollaro in più, il tema di Per qualche dollaro in più nel 1965, sempre ad opera di Ennio Morricone. E a chiudere, dopo l'esplosione del 1971 di Giù la testa, noi riprenderemo la prossima settimana, il mercoledì 21. Per ora vi lasciamo in compagnia delle selezioni della compagna automatica Sonata e delle sue repliche. Si riprenderà domani mattina con la lettura delle prime pagine, la rassegna stampa cittadine, redazionali, a seguire dalle 14 circa tutta Scena Cinema, a seguire Attica Blues, La Schiena del Sol, Il Mezzedes alle 18, Tabula Rasa, e a chiudere Apostasia. Il nostro saluto più importante va al solito a tutte e tutti coloro costretti da condizioni di limitata libertà personale, carcere, gravidanza, clandestinità, arresti domiciliari e tutti i centri di detenzione per migranti. A tutti e a tutte coloro costretti dai decreti amministrativi a delle limitazioni comunque di spostamento. Noi ci risentiamo, invitando sempre a sottoscrivere o a magari a radioabbonarsi andando sul sito www.ondarossa.info della radio. Ci risentiremo mercoledì prossimo. Bella a tutti e tutti, noi ci andiamo sotto la luna comunista, dai, Niente! E questo è niente!